already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. For the final presidential debate, only one network delivers real political coverage. Knowledge, experience, integrity. All sides, all views. McCain and Obama face off for the last time, and nobody brings it to you like Fox. Getting the facts. Not favoring anyone. Straight talk, fearless reporting. Sharp insight, smart analysis, fair and balanced reporting. The competition doesn't even come close. Wednesday, Fox has total team coverage of the final presidential debate. Be here. Ma io vorrei sapere, vorrei chiedere anche, ma come fanno a trovare questi speaker con queste voci così profonde, che altro che Terminator? Questi ti fanno paura solo a sentire quando ti dicono stanotte siate, state qua, guardateci. Insomma, alla fine vogliono solo qualche spettatore per la loro diretta del dibattito presidenziale. E che vuoi, che non ci saremo, però non ce lo dire con questa voce. È la resa dei conti, il dibattito di stasera alla Hofstra University, Long Island, stato di New York, seduti, questa sera li vedremo seduti al tavolo, uno davanti all'altro, come se a tenerli seduti se ne possano dire di meno. In realtà le ultime ore che precedono il dibattito somigliano di più a un campo minato, ci sono trappole dappertutto, pericoli dappertutto, insidie dappertutto, almeno per quella che sembrerebbe essere la strategia repubblicana. Dall'altra parte sembra che Obama, forte del terrificante sondaggio che gli ha appena consegnato il New York Times in accordo con la CBS, che gli assegna 14 punti di vantaggio, 53-39, una forbice, una voragine che continua ad allargarsi, e Obama cammina quel mezzo metro sopra la terra, insomma, e fa sapere che lui tre ore prima spegne il telefonino, si concentra e cerca di trovare la sintonia giusta con il discorso, la parola e le tematiche, poi andrà là fuori e continuerà a dire quello che deve dire, ovvero a pronunciare le sue issues. Fa quasi paura, no? in questa perfetta così empatia con il pubblico, con la sua missione, insomma. McCain in realtà si dibatte di più, perché da qualche mese, diciamocelo, ci aveva preso gusto, insomma, dopo essere stato lungamente scettico sulla sua stessa candidatura. John McCain poi ha giocato una campagna strana, stravagante, un po' da cane sciolto, come egli stesso è il famoso Maverick, ma ha giocato una campagna corposa a cui forse queste ultime settimane che i suoi strateghi hanno voluto indirizzare in una forma aggressiva, in una forma di attacchi all'avversario, anziché continuare a fare quello che a lui veniva più naturale e che a ripensarci era meglio, ovvero rassicurare l'America attorno alla naturalità del suo essere americano. Non so se mi capite, lui si distanziava da Bush in fondo cercando di essere semplicemente se stesso, un americano ragionevole ma al tempo stesso forte, orgoglioso ma al tempo stesso attento alle ragioni degli altri, ma soprattutto attento alle ragioni americane. Poi l'hanno convinto che così facendo i rischi erano troppi, l'hanno convinto ad accettare Sarah Palin come vice nel suo ticket, e adesso Sarah Palin, poveraccia va detto, perché poi insomma ce l'hanno tirata dentro, adesso è al centro di una vera e propria tempesta mediatica, di una contestazione non tanto da sinistra quanto da destra. È inadatta, il McCain 72enne non può permettersi l'eventualità, la possibilità, in caso di una sua incapacità di guidare la nazione, di passare la mano a un personaggio dell'esperienza, dello spessore di Sarah Palin. Molto insomma è il tono polemico al riguardo. Lui che farà stasera? Questo è l'interrogativo, anche perché perché c'è questo conduttore che rassicura tutti, si chiama Bob Schiffer, è un veterano della CBS, rassicura tutti che lui non farà come i suoi predecessori, non terrà buoni i candidati, anzi li lascerà scatenare, anzi se partiranno all'attacco che vadano, che è l'ultimo incontro che hanno faccia a faccia e si dicano quello che si devono dire. John McCain, forse eccitato da alcuni suoi stessi strateghi, dice che non avrà paura a dire a Obama tutto quello che gli vuole dire sulle questioni scottanti. Ora le questioni scottanti sono tante e i sondaggi dicono a John McCain un messaggio chiarissimo: smetti di perdere tempo nell'attaccare l'avversario e dici che cosa vuoi come presidente degli Stati Uniti. Sondaggio del New York Times. Pensi che il candidato abbia speso più tempo nello spiegare quello che vuol fare come presidente o nell'attaccare il suo avversario? John McCain avrebbe speso il 31% del suo tempo a spiegare e il 61% ad attaccare, Barack Obama il 63% a spiegare e il 27% ad attaccare, e i sondaggi vanno come vanno, quindi il pubblico non ha gradito. Quindi dal momento che ha già annunciato, ha già detto tante volte che vuole chiedere ragioni a Barack Obama delle sue connessioni con Bill Ayers, l'uomo che mise delle bombe al Pentagono negli anni 70, vuole capire come, quando e perché hanno collaborato in una serie di organizzazioni a sfondo sociale. Visto che l'ha detto, visto che la questione è sul tavolo, vale veramente la pena che John McCain lo faccia? Questo è l'interrogativo. E magari perché l'interrogativo non è, come suggerisce Robert Cohen del Washington Post, tutto di altro genere da sottoporre a Barack Obama, ovvero: quando hai saputo che Bill Ayers era un terrorista, ha compiuto i gesti che ha combattuto, l'hai criticato, l'hai attaccato pesantemente per questo motivo, hai preso duramente posizione nei suoi confronti? Non sappiamo se questa sarà una domanda che verrà mai posta a Barack Obama, anziché cercare di criminalizzarlo di sponda, che poi tutto sommato è una pratica che sembra non stia raggiungendo risultati, non sta raggiungendo risultati la continua chiamata in causa del reverendo Jeremiah Wright, il pastore afrocentrico che dicono anti-americano estremista, che è stato il pastore di Obama per 20 anni, ma anche questa storia è consumata, gli affarucci immobiliari con il maneggione Tony Rezco, le collaborazioni quando era un giovane avvocatuccio di Barack Obama con la Acorn, l'organizzazione progressista che adesso è sulla graticola per brogli elettorali di dimensioni consistenti. C'è una commissione bipartisan in rampa di partenza. L'amico di McCain, Rudy Giuliani, dice: mi sento unito a lui in queste ore, vorrei che ci desse dentro, ma pensasse soprattutto a parlare della sicurezza nazionale, vorrei che parlasse della sua esperienza. È una specie di richiamo all'ordine, anche perché poi comunque di mine in giro attorno a Barack Obama ce ne sono parecchie. I want to bring you to Reverend Jesse Jackson's comments when he said of Obama administration will have a less Israel-centric foreign policy and that'll be good for the whole region. What was he doing saying that, Reverend Jesse Jackson? And number two, does it matter? Questa è una trasmissione di Fox in cui Dick Morris, ex democratico pentito, adesso passato in forza appunto alla rete informativa conservatrice americana, fa le pulci a Jesse Jackson, che veramente, se può dar fastidio a Barack Obama, lo fa in ogni modo possibile. Adesso si è messo a sostenere che un Obama presidente cambierebbe radicalmente la politica americana nei confronti di Israele, facendo veramente tremare l'America, tramare le vene all'America ebrea, ma non solo, naturalmente anche a chi non vede con piacere dei cambi di scenario in questo senso. Insomma, le insidie per Barack Obama sono reali. Non sappiamo quanto debba essere fino alla fine John McCain a sbattergli in faccia, a diventarne in un certo senso l'interprete primario. Stasera vedremo che cosa succederà, tra poco ne parleremo ancora con un ospite, la cosa certa, come dice John McCain, si toglie i guantoni in vista dell'incontro-scontro di stasera. La cosa certa è che dopo il dibattito, dopo i 90 minuti alla Hofstra University, ne sapremo veramente di più su chi sta più vicino, su chi si sta impadronendo delle chiavi della Casa Bianca. Nice warm bed. You just remember what your old past said. Or you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble. I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through. Cause you got a friend in me. You got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am, big and stronger too. Maybe. Claudia mi scrive: Obama passa tre quarti del tempo a parlare di sogni, l'altro a fare flip flop. Secondo me era così, ma un paio di mesi fa, adesso un po' meno. Simo scrive: io questa differenza di offerte tra politica fra i due, issues contro polemiche, non la vedo. Beh, insomma, vedremo se stasera le issue di McCain saranno superiori alla polemica. Noi però andiamo adesso a fare un viaggio lontanissimo, andiamo in diretta con il Sichuan per celebrare un evento importante, solenne, credo anche dotato di un notevole impatto emotivo, che è andato in scena. L'Orchestra Sinfonica di Roma, diretta da Francesco La Vecchia, in questi giorni in tournée in Cina, poche ore fa ha tenuto un concerto a pochi chilometri dall'epicentro del sisma. Tra l'altro l'inizio del concerto è stato dato simbolicamente proprio alle 14:28 locali, l'ora del terremoto del 12 maggio. È stata eseguita l'eroica di Beethoven e poi musica italiana, ma tutto questo ce lo può dire meglio Francesco La Vecchia, il direttore che abbiamo in linea telefonica, una linea tra l'altro esitante dal Sichuan, ma attraverso la quale lo salutiamo. La Vecchia, buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, un evento particolare, anche devo dire emotivamente straordinario, di cui credo essere stati protagonisti, sia una cosa di quelle che si ricordano a lungo, vero? Certamente ce lo ricorderemo per tantissimi anni. È stato un concerto importante, molto importante per tutti noi, e ha dato il segno a questa popolazione di quanto il nostro paese, l'Italia, e la produzione culturale del nostro paese siano vicine alle popolazioni che soffrono, e in questo caso alla Cina e a questo popolo straordinario che ci ha accolto con un entusiasmo e con una partecipazione indicibili, veramente incredibili. Dove si è svolto il concerto? Chi c'era? Che tipo di pubblico ha partecipato? Come vi hanno accolto? Ma guardi, noi ci troviamo ad una cittadina che si trova a 100 chilometri circa da Chengdu. Chengdu è una città a 2 ore d'aereo da Pechino, circa 800 chilometri, praticamente ha 13 milioni di abitanti. Invece nella città in cui abbiamo suonato noi c'è 1.200.000 abitanti, ed era vicinissima all'epicentro del sisma, tanto che praticamente un terzo, quasi la metà delle abitazioni e degli edifici di questa città sono stati abbattuti dal sisma. La situazione era molto particolare. Abbiamo suonato davanti all'ingresso di un parco nazionale importantissimo, di fronte ad una foresta immensa, proprio al limitare della città, in una piazza dove avevano organizzato un palcoscenico adatto per l'esecuzione, certo, coperto con una conchiglia acustica, una cosa incredibile, perché lì ancora la gente scava. Ecco, ecco, ci racconti la vecchia, ci sono ancora tracce visibili del terremoto? Ma guardi, io ho fatto un giro, mi hanno portato le autorità a visitare, tracce visibili a dire poco, ci sono palazzi caduti su se stessi, sembra di vedere una lasagna, cioè tutti i piani che si sono accasciati l'uno sull'altro, e quindi per un'altezza di 8 metri invece si vede il condensato di un palazzo di 10 piani. E ne ho viste decine, ci sono ancora molti spiazzi grandissimi pieni di macerie che mi raccontano erano dei vecchi edifici che sono stati poi definitivamente abbattuti, e si vedono ancora moltissime abitazioni lesionate. È una situazione veramente ancora molto difficile. La vecchia, grazie per le sue descrizioni, per il suo resoconto, ma per concludere ci racconta un po' questo programma musicale, come l'avete pensato, come leggiamo dall'agenzia c'è tanta Italia dentro. Non ho dovuto fare una grande fatica, perché quando muore un grande musicista, quando muore una grande personalità della cultura, noi siamo soliti suonare la marcia funebre che è il secondo tempo della terza di Beethoven. Però c'è un fatto, la terza di Beethoven, che è anche la sinfonia eroica, abbiamo voluto suonarla tutta insieme a dei titoli italiani di opera, quindi abbiamo suonato anche i Vespri siciliani, il Guglielmo di Verdi, il Guglielmo Tell di Rossini, però abbiamo voluto suonare tutta l'eroica proprio per questo, perché eravamo presenti una foltissima rappresentanza di infermieri, polizia, esercito, pompieri, che sono stati i veri, autentici eroi di quei giorni. Io ho visto dei filmati quando prima ci fosse poi il grande lavoro sulle Olimpiadi, ho visto dei filmati del terremoto e ho visto questa gente veramente impegnati giorno, notte, per giorni e giorni a scavare per cercare persone ancora in vita. Sono state riportate fuori dalle macerie 7200 persone, cioè questo è veramente eroico, e io ho creduto la cosa più giusta per l'una e l'altra cosa, commemorare gli scomparsi e celebrare il coraggio di questa gente che veramente a rischio, ancora in questi giorni dicono che ci sono state molte scosse di terremoto, quindi allora immagini cosa può essere successo nel maggio scorso, e questa gente era lì per cercare i propri cari, per cercare, ebbene abbiamo suonato per loro, è stato un momento, come puoi immaginare, di fortissima intensità, e c'era una piazza con, ma hanno detto, più di 10.000 spettatori, insomma. Va bene, grazie a Francesco Lavecchia, anche per come ci ha saputo, no, Emiliano, raccontare la solennità, anche la straordinarietà di questo momento, e poi questa idea di rilanciare così sul piccolo uomo. Sembra sentire certe storie dell'attacco alle torri, insomma. Stavo pensando alla stessa cosa, cioè il riferimento ai pompieri, esatto, mi ha fatto venire in mente l'11 settembre, esatto. Direi che il maestro ci ha trasmesso la commozione che sicuramente si è trovato davanti, certo, in questo scenario spettrale, ma forse anche un po' di vita, di speranza del Sichuan. Certo, in occasione di questa tappa importante dell'Orchestra Sinfonica di Roma. Prima pagina. Corriamo sulle notizie cinesi. Allora, intanto c'è un allarme lanciato da Greenpeace che dice che a partire dal 2030 la Cina non sarà più in grado di produrre cibo sufficiente per sfamare la sua crescente popolazione. Direi che è un problema mondiale, non solo cinese, che tutti dobbiamo in qualche modo affrontare. Poi intanto il governo cinese prosegue la sua decisa massiccia controffensiva per contenere gli sviluppi, i retroscena, i risvolti negativi dello scandalo del latte e la melamina. In queste ore ha praticamente deciso che tutti i prodotti contenenti latte più vecchi di un mese, quindi confezionati prima della metà di settembre, saranno immediatamente rimossi dagli scaffali per essere sottoposti a test di emergenza. C'è una nota persino sbrigativa dell'agenzia governativa Nuova Cina che dice: non ci interessa di che marca siano, la vendita deve cessare immediatamente. E poi sul latte ha persino parlato l'arcivescovo di Hong Kong, il cardinale Zen, noto anche nelle cronache, certo, qui di Jefferson Ming, che si trova in Vaticano in questi giorni e che ha detto che scandali come quelli del latte inquinato avvengono in Cina per lo spaventoso declino dei valori sacri della vita, non solo cristiani ma anche della dottrina tradizionale confuciana. Con un ospite in studio, gli abitué di Jefferson Ming lo conoscono bene perché è spesso dalle nostre parti in carne e ossa o magari dall'altra parte dell'oceano quando si trova in viaggio negli Stati Uniti. Pietro Paganini, il presidente di Competere, che è un think tank italiano che elabora strategie per il libero mercato e una migliore competizione favorendo l'innovazione. In questo momento si occupa anche di insegnare management alla John Cabot University di Roma. Ciao Pietro. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Io ti voglio prendere in parola, insomma, per tutta questa lunga e corposa presentazione e titoli che ti ho attribuito, interrogarti, incastrarti un po' su quello che abbiamo detto nella prima parte del programma, ovvero c'è qualcuno, nella fattispecie un candidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America, nella fattispecie John McCain, che ha deciso, no, a proposito di competizione e di favorire l'innovazione, ha deciso di puntare, non dico tutto ma tanto, sul fattore negativo, ovvero sull'attaccare l'avversario, ovvero sul tenere sullo sfondo, diciamo, il suo programma, diciamo in questo modo, semplifichiamo naturalmente, ma soprattutto nel provare a destabilizzare l'elettorato, a rinnovare i dubbi attaccando l'avversario. C'è il New York Times di oggi che tira fuori un sondaggio e un articolo molto lungo e analitico in cui dice che sostanzialmente backfire, la faccenda gli è un po' esplosa in faccia. Tu, ecco, anche da un punto di vista strategico, diciamo anche professionale, quello che ha fatto, il modo e la strategia che ha scelto McCain nell'ultimo mese e mezzo, come la giudichi e come la inquadri? Ma personalmente non la comprendo molto, perché lo vedo in difficoltà. Anche negli Stati Uniti i suoi seguaci si stanno rendendo conto che quello che dicevamo mesi fa, che forse non era il candidato migliore, ma in realtà è stato il candidato migliore tra quelli che c'erano tra i candidati, e quindi un problema dei repubblicani di esprimere un vero candidato che potesse arginare il cambiamento sia di Obama sia di Hillary Clinton dall'altra parte. In realtà io credo che McCain ha a disposizione un set di riforme economiche e di proposte elettorali che sono quelle sviluppate dai think tank. Più volte abbiamo parlato dall'ATR, quindi l'esigenza di riformare il sistema fiscale, di abbassare le tasse. In realtà anche il suo programma è un programma che poi ATR, dove però mi sa non lo amano tanti. Ah, spieghiamo che cos'è l'ATR. L'ATR è l'American for Tax Reform, quindi quel think tank, o uno dei più grossi think tank americani, che propugna diciamo, promuove l'abolizione forse no, l'abbattimento sostanzioso delle tasse, il famoso leave me alone, quindi riduzione al massimo dello Stato e liberalizzazione. Fa capo a Grover Norquist, che non ama particolarmente John McCain. Questo lo dici tu. Dico poi quando me lo vedo, detto quando lo vedo No, Grover ha cambiato posizione, nel senso il suo candidato preferito immagino fosse Ron Paul, allora oggi per forza o forzatamente è John McCain. Infatti nell'intervista che mandammo questo luglio disse: non ha promesso di abbassare le tasse, non ha firmato il mio pledge, però mi ha fatto capire che lui le tasse le abbasserà. Ma in realtà se si legge anche sul sito internet il suo programma, si vede che ci sono delle proposte. C'è la proposta di rivedere per esempio la questione che riguarda i brevetti in opposizione a quello che fa Obama, c'è la proposta di abbassare il capital gain, insomma ci sono una serie di contenuti che poi i nostri ascoltatori possono vedere, anzi consiglio di vederli sul sito internet, perché sui nostri giornali si parla più dei un'attenzione alla questione delle pensioni, per esempio. L'attenzione sulle pensioni, la questione del welfare, le famose insurance e quindi il problema dell'healthcare, il problema sanitario. Credo che però abbia scelto di attaccare, perché è nella strategia dei repubblicani da sempre di attaccare i democratici, e dall'altra parte c'è un democratico che, bisogna dargli atto, va avanti per la sua strada nonostante gli attacchi. Non gioca quella partita e in più è tra virgolette salvato dal fatto che oggi la campagna elettorale negli Stati Uniti, se c'è, è un lumicino. Forse sono state più campagna elettorale le primarie di quanto sia questa campagna presidenziale, per due ragioni. Uno, si era già speso tanto in primarie, soprattutto all'interno dei democratici, dove sembrava lo scontro vero Hillary Obama, sembrava lo scontro presidenziale. Due, McCain è certamente un personaggio, ma non è un personaggio carismatico e quindi non trascina le grosse folle. E poi c'è il problema economico. La settimana scorsa negli Stati Uniti si parlava poco delle elezioni, si parlava poco del dibattito vicepresidenziale. I due vicepresidenti non sono entusiasmanti, abbiamo già detto della Palin. Anzi, la Palin in questo momento è sottoposta a un vero è sparita perché forse piccione, è meglio che non apra bocca. E quindi la strategia vera di McCain è quella di attaccare, anche perché sta ricevendo, proprio a causa di tutti questi think tank che sono un fatto positivo da una parte ma sono anche poi un braccio negativo, quando propugnano o forniscono una serie di idee tra di loro diverse, e McCain sembra veramente confuso su come muoversi. Oggi il Wall Street Journal, in opposizione forse al New York Times, aveva un articolo con cui tende ad attaccare Obama sulla famosa questione di Fannie Mae. Certo. E Freddie Mac, su internet ormai spopolano i video in cui si dimostra che non è stato il libero mercato a scatenare la crisi finanziaria, ma al contrario è stato l'eccesso o di cattiva regolamentazione, e in particolare il ruolo che Obama e l'amministrazione Clinton Bill in questo caso hanno avuto negli anni precedenti. Tra l'altro su internet è disponibile la lista di chi ha preso più soldi da Fannie e da Freddie a livello politico elettorale. Obama è quello che in 3 anni ha preso più soldi di tutti quelli che ne hanno presi in 10 anni. Quindi i repubblicani cercano di dimostrare che Obama è coinvolto in questa crisi finanziaria, e alcune ragioni ci sono. Naturalmente i democratici dall'altra parte cercano di sviare. È chiaro però che questa crisi economica dimostra che i due politici in corsa non hanno grossa esperienza economica, non hanno una risposta, e questo fa soffrire il cittadino. Non a caso hanno messo del tempo a esprimerla. Hanno messo del tempo ad esprimerla, e qui ci sono due posizioni. Una di quelli che preferiscono in un momento di crisi economica muoversi verso destra, verso la conservazione di quello che c'è, invece poi c'è la visione di chi è più innovativo e forse anche un carattere più internazionale europeo, che dice: in un momento di difficoltà vincerà la figura di Obama, perché è una figura di cambiamento. Due domande ancora rapidamente. È nell'aria, sta montando giorno per giorno sui mezzi di informazione americane l'evocazione di quello che loro chiamano il Bradley Effect, ovvero la possibilità, come accadde allorché il sindaco di Los Angeles si presentò a correre come governatore da nero, da afroamericano quale egli era, la gente diceva nei sondaggi, nelle richieste, che l'avrebbe votato, poi alla fine non lo votò, ovvero le persone in America, in una percentuale tutta da stabilire, tendono a tenere nel cassetto determinati ragionamenti legati alla razza, anteponendoli o posponendoli alla questione politica. Ci credi? È un fattore? Ma io uno non mi esprimo più, soprattutto a 2 settimane non mi prendo il rischio di esprimermi, però per quanto riguarda i sondaggi c'è un effetto che è anche il famoso effetto Berlusconi, che si dice non si vota Berlusconi, poi effettivamente vince Berlusconi. In America credo che il problema dei sondaggi sia anche dovuto a chi li fa, come in Italia, ma anche dove vengono fatti. E i repubblicani sono forti e fortissimi dove i sondaggi non si fanno, certo. E sono forti tra un pubblico che tendenzialmente è conservatore nei costumi e quindi evita anche di fare i sondaggi. Di parlare, certo. Con Kerry e Bush nelle ultime elezioni ci fu un po' questo effetto, anche se il vantaggio che si dava in alcuni casi a Kerry era indubbiamente inferiore. C'è il rischio che oggi si sta correndo è che Obama, come prima dell'estate, si candidi già presidente, anzi si faccia già il presidente. Ti ricordi che venne in Europa facendo il presidente, poi tornò a casa e prese le mazzate sui denti. La gran mazzata dopo Berlino. Io, dopo aver esplicitato il mio amore da una parte per Rompole e poi per Rudy Giuliani, è meglio che per un po'. Stai alla finestra, però dici almeno che cosa ti aspetti, brevemente, che cosa ti aspetti dal dibattito di stanotte, se non altro ci tengono svegli questa volta. Ma forse uno dei due alla fine dirà che abbatterà l'ICI o la property tax negli Stati Uniti. Questo è il più disperato dei due, questo non lo so. Sicuramente non cambierà molto dai dibattiti precedenti, a meno di miracoli. Vedremo veramente cosa succede il 4 novembre. Credo qualche ingaggio, qualche scambio, tante promesse. Ci saranno tante promesse, ma oggi l'America ha paura della situazione economica perché è una situazione sconosciuta, non perché solo per il danno che sta causando, veramente perché gli americani, nonostante siano ancora un'economia forte e dinamica, i numeri lo dimostrano, però dall'altra parte c'è una sorta di darkness, cioè di oscurità che sta avanzando come lo sta qui in Europa. Obama sembrerebbe il nuovo, quindi colui che è in grado di spazzar via. Bisogna capire se la forza della macchina repubblicana, che attenzione non è quella dei giornali, è quella delle cosiddette grassroots, cioè quella che trovi sul territorio, quella che non si vede, che è una macchina da guerra. Vedremo chi vincerà. Grazie Pedro, rivediamo da queste parti. I can clearly see nothing is clear. I keep falling apart every year. Let's take a hammer to it. There's no glamour in it. Is there any way out of this dream? I'm as blue as I can possibly be. Is there someone else out there for me? Summer is dragging its feet. I feel so incomplete. Is there al collegamento che abbiamo fatto prima con Francesco Lavecchia, il direttore dell'Orchestra Sinfonica di Roma, che si è esibita poche ore fa in Sichuan. Ci scrive un ascoltatore che dice: ancora macerie, dice il vostro ospite, qui in Friuli siamo andati avanti per più di 10 anni a ricostruire, non c'è mica da stupirsi perché non è per niente facile. Giusto. E poi ancora, volete sapere a che ora è il dibattito stanotte? 3 di notte, ora italiana, su un sacco di emittenti. Abbiamo un altro collegamento con la Cina, raddoppiamo oggi, adesso ci spostiamo in Hunan, nel sud della Cina, dove dall'altra parte del filo c'è Stefano Perale, che è poi in realtà, tanto così per banalizzare, Stefano ci deve scusare, diciamo il uno dei primi, il capo fan cinese di Paolo, il nostro eroe che seguiamo periodicamente da Shanghai. Ma chiamiamolo in causa. Stefano, buonasera. Sì, buonasera, in effetti qui sono le 11 di sera quasi, certo. Dunque, no, io volevo dire, prima di tutto tu sei veneto di Mestre, come il nostro caro Paolo, sei anche l'autore della definizione migliore, devo dire, dell'avventura di Paolo, questo shanghaizzato per amore, ci è piaciuto molto. Sì, che appunto, sì, che appunto forse calza un po' a pennello, tra l'altro appunto ho scoperto che Paolo è un mio concittadino, quindi la cosa è anche doppiamente simpatica. Hai seguito un po' le sue imprese? Sì, diciamo che ho condiviso un po' le croci, le delizie che appunto ci raccontava Paolo, in effetti sì. Comunque io mi trovo nel sud, in realtà un'ora di volo da Shanghai, per intenderci. È un po' diversa come realtà, credo, questa di Hunan rispetto a una megalopoli come Shanghai. Ho scelto un po' così anche la provincia profonda della Cina come esperienza iniziale, per avere un contatto più diretto, più genuino, insomma, più autentico di quello che la realtà cinese rappresenta. Ecco, dici qualcosa in più, perché noi sentiamo tanto parlare naturalmente di Shanghai e Pechino dai nostri interlocutori, ma prova a darci qualche tratto invece descrittivo di un posto come Hunan. Guarda, la definizione che forse appunto calza a pennello sarebbe il fatto di dire la città di Hengyang, in cui mi trovo, è una città proprio in fase di sviluppo frenetico, insomma. Quello che si può vedere anche così a occhio nudo è un po' la mancanza di regole, quindi uno sviluppo senza proprio regole precise, con infrastrutture a volte anche carenti, ma con un dinamismo e una voglia di crescita che è veramente esplosiva. Fondamentalmente direi uno di quei posti in cui magari uno si può chiedere chissà come sarà tra 5-6 anni, quindi sai, la domanda è proprio questa, di dire tra un tempo anche breve sarebbe interessante ritornare in un posto come questo e vedere che cosa mai è cambiato. A te invece in un anno, contrariamente a Paolo che è partito all'avventura così senza un solco da seguire e non a caso ne sta pagando anche un po' le spese, tu invece hai seguito un profilo, diciamo un percorso di lavoro più garantito, tra l'altro in un settore molto interessante, quello dell'insegnamento delle lingue a livello universitario, in particolare dell'inglese, di cui i cinesi hanno un gran bisogno, vero? Sì, in effetti è un tipo di richiesta molto ben strutturata, direi che fondamentalmente con il nuovo corso di Hu Jintao da qualche anno a questa parte si è dato proprio una priorità molto forte, molto sostanziosa all'insegnamento delle lingue straniere. Insomma, la Cina, come sappiamo, è una realtà economica in fortissima ascesa e chiaramente il progetto futuro più immediato è quello di mettere nelle condizioni il giovane cinese che si costruisce delle esperienze, delle conoscenze anche in ambito economico, proprio di poter competere, di poter confrontarsi con il collega dell'Ovest, insomma il collega americano, europeo che sia. Quindi la lingua inglese fondamentalmente diventa non solo un veicolo comunicativo importante, ma anche uno strumento importante per poi poter operare e lavorare in un contesto globale. Vai. No, appunto, proprio, diciamo, questa è la cosa fondamentale. Poi ci sono realtà comunque anche emergenti, perché anche l'italiano di nicchia comincia ad avere delle richieste importanti. So, per esempio, una ragazza mi parlava della sua realtà, lei è di Hangzhou, che è una zona sud di Shanghai, è un po' il centro principale della produzione di tessuti, della seta, e ci sono moltissime case di moda anche lì, quindi contatti con l'Italia, con Milano, con il mondo della moda potrebbero diventare importanti. Certo, l'insegnamento italiano può funzionare. Sì. Senti, ci sono diversi ascoltatori che ci stanno contattando, che ti riguardano, e i più buon temponi, visto che hai fatto una descrizione della città dove vivi, vogliono sapere anche com'è la questione a ragazze da quelle parti, ma noi possiamo dargli un'informazione in più. Tu ti sei fidanzato sul posto. Io non solo mi sono fidanzato, ma anche felicemente direi, anzi, consiglierei a Paolo, visto che è appunto mio carissimo concittadino, di ogni tanto fare una puntatina al sud, perché ecco. Diciamo, è un po' risaputa questa cosa in Cina, le ragazze nel sud di solito sono molto dolci, molto affettuose, molto solari, insomma. Ah, ecco, ecco, ecco. Su questo non ci piove. Ecco l'informazione. Va bene, Stefano, ti ringraziamo. Il programma sta finendo, ma siamo felici di aver aperto i contatti con te e speriamo, contiamo di risentirci presto. Tra l'altro sappiamo che alla tua fidanzata piace molto la nostra sigla di coda ed è a lei che la dedichiamo. Anche se pare che non capisce le parole, però, Poi un giorno vi diremo se noi le parole della canzone le conosciamo o no, ma solo un giorno lo diciamo. Allora, questa che canta Vivian Su è la sigla di chiusura di Jefferson Ming. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Emiliano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Pietro Lacorte, la mail jeffersonming@radio24.it. Programma in replica stasera alle 9, domani ci vediamo alle 4 qui con i consueti ospiti ed esperti, magari per commentare insieme il debate della Hofstra University, sempre qui su Radio 24. See you.